Buonasera, dottore. Buongiorno, dottoressa. Pronto? Sì, sì. Cioè, ci siamo un po'. Siamo dottoresse, infermiere, sì, giornaliste, conduttrice. Mauro. Sì, buongiorno, salve, ascolti, niente. Ah, bene, direi che è importante. Buongiorno, dottoressa, grazie. Ma adesso non so, dipende. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. È vero, finalmente venerdì, ma diciamocelo un po', Deborah, che sì, fatica, insomma. Insomma, si arriva e si pensa al weekend con grande gioia. Attesa, sì, poi passa in un batter d'occhio. E si arriva a lunedì a volte che si è più stanchi di prima, forse perché siamo così a pezzi, sì, ma insomma, ci sono tante cose che ci fanno sentire un po' stranetti al venerdì, lo stress, le tensioni, adesso ci si mette anche il clima, non è freddo, ma l'umidità si fa sentire, come d'altronde ahimè le primavere, insomma, tutto contribuisce a farci sentire rotti e doloranti. A farne le spese sono spesso le nostre articolazioni, che a volte proprio ci danno l'impressione di essere arrugginite, rigide, indolenzite, insomma, quella strana sensazione che noi spesso raccontiamo con la classica espressione «sono tutto rotto». Che cosa sta succedendo? 800 24 00 24 per scoprirlo insieme a noi. Dai, Cheryl, non vedo l'ora che finisca la partita. Puoi servire. Sai che ti dico? Prima tu. E giunti alla fine di questa settimana, un po' anche la borsa sembra essersi rotta. Detta così, potrebbe sembrare tutti rotti, anche in sembra, ma non stiamo dicendo parolacce, perché a cuore denari non si dicono. Diciamo pure una settimana abbondante, perché i mercati europei per i mercati europei quella di ieri è stata, si dice in gergo finanziario, l'ottava seduta di calo. Nicoletta, vedi che ogni giorno qua insegniamo ai nostri ascoltatori termini nuovi. Pensate, quella che le borse, i mercati finanziari hanno vissuto negli ultimi giorni è stata la più lunga collezione di giornate consecutive con il segno meno da 11 anni. Dai! Avevamo appena fatto in tempo ad apprezzare un periodo di borse con il pedale dell'acceleratore schiacciato, ed ecco che, anche se in qualche puntata di Cuore e Denari noi l'avevamo detto, la correzione è arrivata, ed è arrivata anche in modo un po' brusco e ci ha rotto un po' tutti. Ecco, gli indici delle borse europee sono piombati ai minimi da 13 mesi a questa parte, possiamo dire di essere tornati sull'otto volante, alle prese con grande volatilità. Allora, dalle 11.45 cercheremo di spiegare cosa comporta tutto questo per i risparmiatori, quindi iniziate a prenotarvi all'800 24 00 24. Lo stesso numero potete utilizzarlo per raccontarci se avvertite dolori e dolorini, se vi sentite arrugginiti e, perché no, se fate un po' fatica nell'afferrare oggetti, nel fare alcuni movimenti, salire e scendere dalla macchina o fare le scale. Poi gli atteggiamenti, le risposte sono diverse, Deborah. C'è chi non ci dà peso. È possibile. Chi dà la colpa all'allenamento, magari un po' intenso del giorno prima, e dice sono tutto rotto perché sono andato in palestra. Chi si rassegna pensando che sia un inevitabile regalo degli anni, e chi dà colpa al cambiamento del clima. Insomma, primi freddi, primi dolori, e pensa ai reumatismi. Insomma, tante teste, tante idee. Voi che fate se le vostre articolazioni si lamentano? A cosa pensate? Avete provato a darvi una spiegazione? Bene, possiamo farlo insieme oggi con l'aiuto di una grande esperta, ma prima di presentarvela, diteci nel frattempo se ultimamente fate fatica a stringere la mano senza esitazione, abbottonare la giacca o allacciare il reggiseno, salire e scendere dalla macchina, afferrare oggetti o girare la chiave nella toppa. Allora, se queste domande vi hanno incuriosito o avete provato a rispondere a qualcuna di queste avete risposto sì o abbastanza, o qualche volta, restate con noi perché ne parliamo oggi con una grande esperta. Saluto la dottoressa Magda Scarpellini, direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia all'ospedale Fornaroli di Magenta. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie di avermi chiamato e un caro saluto ai radioascoltatori. Dottoressa Scarpellini, lei è una reumatologa e si occupa di malattie reumatiche. Sono malattie subdole, silenziose, che consumano a poco la cartilagine, un po' fa come la goccia, no? Che scava la pietra, lentamente, continuamente, arrivano a danneggiare poi i tessuti vicino alla cartilagine. Poi all'improvviso, dopo anni di lavorio instancabile e silenzioso, presentano il conto che è salato, come spesso succede quando una malattia lavora senza che noi ce ne accorgiamo. Sintomi come il dolore, difficoltà di movimento sono i sintomi iniziali, che comunque non vanno sottovalutati, ma al contrario portati all'attenzione del medico curante. Allora, dottoressa Scarpellini, io spero e credo che se nella puntata di oggi noi lei ci aiuterà ad imparare a individuare e riconoscere i sintomi che possono segnalarci una sofferenza delle nostre articolazioni e ci invitasse e motivasse a parlarne con il nostro medico, diremo che noi saremo praticamente a cavallo, dolori permettendo. Beh, certo, perché in effetti c'è molta disinformazione e confusione nel mondo delle malattie reumatiche, che sono tantissime e stranamente, perché colpiscono milioni e milioni di italiani. Ce ne sono almeno 4 milioni che soffrono di artrosi, o almeno 1 milione che soffrono di artriti, 700.000 di dolori extraarticolari, le connettiviti, e chi più ne ha più ne metta, l'osteoporosi, eccetera. Quindi è ovvio che tutti noi reumatologi vogliamo sottolineare subito che la diagnosi precoce, la conoscenza di queste malattie può cambiare veramente oggigiorno la qualità di vita e l'andamento di questa, di queste malattie, che sono tante, ma che comunque, anche se per fortuna non si muore quasi mai di malattie reumatiche, ma però ci si può vivere male se non si va dallo specialista giusto nel momento giusto. E devo subito sfatare una leggenda che siano inguaribili, perché ai tempi si parlava sempre del fatalismo, quasi fossero un fatalismo divino: tu man mano che invecchi ti vengono i reumatismi, e questo non è assolutamente vero. Infatti abbiamo pensato, sia a livello della Società Italiana di Reumatologia, di cui faccio parte anch'io nel mio piccolo a Magenta, e anche per i comuni limitrofi con l'aiuto dei sindaci della zona, a lanciare una campagna di sensibilizzazione nel nostro territorio proprio per la conoscenza primaria, conoscenza, la diagnosi e la terapia delle malattie reumatiche. Si farà un evento a Magenta il 24 ottobre, cioè venerdì prossimo. Con i con due comici di Zelig, voi parlate, no? Sull'artrite, sì, sì. Sulle malattie reumatiche non si scherza, ma per lanciare questo messaggio alla popolazione avete voluto chiedere l'aiuto di Claudia Pennoni e di Cevoli, quindi sì, che noi amiamo molto. Perché in particolar modo Paolo Cevoli è un grande ascoltatore e fan di Cuore Denari. Anche Claudia. Vero? Per cui l'inviteremo. È brava, ottimo. Infatti. Allora, benissimo, ricordiamo questo appuntamento se vivete vicino a Milano, un saltino a teatro per ridere e per ricevere delle informazioni preziose. Scusate, volevo anche dire che ci sarà, in questa serata verrà lanciato un numero verde, ci sarà un open day dopo due settimane nell'ospedale di Magenta, dove io e tutti i miei collaboratori saremo a disposizione della popolazione che vorrà porci i loro problemi. E a Claudia Pennoni ho anche chiesto di leggere alcune storie che ogni tanto i nostri malati ci scrivono, ci fa molto piacere questo, ma non per farci complimenti, ma perché vorrei far capire alla gente comune o a chi magari ha parenti con malattie reumatiche quanto possa essere importante arrivare dallo specialista giusto e migliorare la qualità di vita, e quindi togliere quelle paure della vita quotidiana che possono veramente incidere molto, certo, sulla nostra psiche anche. Allora, abbiamo dato tutti i riferimenti, conviene vivere a Milano o lì vicino, insomma, per non perdersi questa occasione. Organizzeremo delle gite, dei viaggi, dei pulmini. Tra l'altro, dottoressa, certo, dottoressa Scarpellini, ho una curiosità, la donna di Denari ha una curiosità su questo argomento, perché credo di aver capito che le malattie reumatiche appartengano ad una famiglia numerosa e anche eterogenea, e da quello che ho capito anche piuttosto chiacchierata e poco conosciuta, e su questa famiglia pesano molti luoghi comuni, no? Io da mia mamma sento molto spesso parlare di reumatismi, sono la stessa cosa? Sì. Non contraddica, non contraddica le mamme, dottoressa Scarpellini. Ho detto sì e no. Sì. Sì, perché è il linguaggio comune, le malattie reumatiche vengono definite reumatismi. Sì. Però in realtà le malattie reumatiche sono un complesso di malattie che quasi tutte croniche, quindi progressive nel tempo, e molto spesso sono compare dolore, ma anche infiammazione. Non solo, ma un'altra cosa importante è che non possono solo colpire le articolazioni, ma possono colpire anche tutto quello che c'è intorno, i muscoli, i legamenti, i tendini e in alcuni casi anche altri organi e apparati, quali l'occhio, la pelle, il rene, il polmone, il cuore. Quindi sono malattie che nel tempo, soprattutto le autoimmuni, si possono diffondere ad altri organismi. Dottoressa Scarpellini, cercheremo poi di capire sostanzialmente la natura dei nostri dolori e distinguere un dolore che insomma può starci, come si dice, o da invece da un dolore che deve essere portato all'attenzione del nostro medico curante. A proposito di luoghi comuni che pesano sulle malattie reumatiche, si pensa che siano i reumatismi, si pensa che siano dolori tipici degli anni, l'aveva anticipato, che siano acuiti anche dal clima e dall'umidità in modo particolare. Anche in questo caso conviene fare una precisazione, perché mettere qualche puntino sulle i. A proposito degli anni, direi che purtroppo non colpiscono solo le persone anziane, non sono delle malattie degli anni, ma possono colpire anche le persone giovani. Certo, cioè, le malattie reumatiche non hanno età, dai bambini fino all'anziano. Quindi veramente in tutta l'età della vita, dipende da quale ovviamente, i reumatismi infiammatori, le artriti molto di più nei giovani e l'artrosi un pochino più negli anziani, ma anche su questo non è vero, perché ci sono delle forme anche di artrosi giovanile. E non solo, ma il clima umido, certamente c'è sempre la sensazione quando c'è l'umidità di sentirsi più rotti, come diceva bene lei all'inizio, però in realtà non è che il clima umido o l'acqua, per esempio io metto le mani nell'acqua, è per questo che mi è venuta l'artrosi, sono altri luoghi comuni che non sono assolutamente veri come causa della malattia. Sono solo sentendosi al freddo, magari un malato artrosico o all'umido, si sente tutto contratto, ma non è l'articolazione interessata dall'artrosi che ne risente, è tutto l'apparato muscolare che c'è intorno. E mi sento di dire un'altra cosa, che è un errore che io sento spesso anche dai malati: tutti i reumatismi infatti sembrano tutti uguali, tutti pensano che sia sempre solo l'artrosi del vecchietto. In realtà le artriti, che sono molto più giovanili, soffrono al caldo. Sì. Quindi in effetti tutti dicono: io vorrei vivere ai Caraibi. Assolutamente no, se io avessi un artrite reumatoide. Gli dico: attenzione, non andate, perché oltre l'umido, per la carità, ma c'è il caldo. Certo. Se io ho l'articolazione che è infiammata, io quindi ho un'artrite, c'ho il fuoco nella mia articolazione che bolle, che è calda, figuriamoci. Fuoco se con fuoco, caldo. Assolutamente avrei no. Del ghiaccio. Avrei bisogno quindi di un clima montano, di avere un clima secco, e quindi è tutto il contrario di quello che normalmente si pensa. Allora ci scrive subito Fabrizio da Pistoia, leggo il suo messaggio al 349-238-6666, prima perché Fabrizio ci adora. Deborah. E quindi diciamo che il messaggio va letto allora due volte. Già è un buon gustaio e ha capito tutto. Adesso vediamo se la dottoressa Scarpellini lo accontenta rispondendo alla sua domanda. È vero che i mirtilli aiutano le cartilagini? Ci scrive il nostro amico. Ma i mirtilli sono ricchi di vitamine, le cartilagini, cioè tutti i frutti in genere aiutano, non è un frutto specifico, comunque può aiutare, non c'è però un'evidenza scientifica precisa. E lo spunto che ci suggerisce Fabrizio mi fa venire in mente di chiederle, dottoressa, se c'è una relazione tra dieta e artrite. Sì, nel senso che ci sono degli alimenti che ovviamente possono migliorare, ma questo in generale, sì. Non solo nell'artrite, anche nell'osteoporosi e nell'artrosi, sì. Nel senso che soprattutto direi che l'alimentazione corretta per un malato di malattie reumatiche possono essere... Stava dicendo anche lei reumatismi, vedi, sì, come sì, tua sì, mamma, sì, chi sì, va sì, con il chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ma mi piace chiamarli reumatismi, perché così capiamo tutti. Rendono e sì, nel gergo, diciamo, sono più diffusi. E poi la parola termine ti fa meno paura o no? Vero? Forse comunque un po' sì. Pensavo agli ortaggi, pensavo al pesce, alla frutta secca e poi non ultimo il latte e i formaggi. Su questo io ci tengo tantissimo perché ormai oggi è giusto, certamente, lo dirò sicuramente, che bisogna essere sempre magri, che è meglio, però c'è sempre l'idea: se io bevo il latte e mangio il formaggio, ingrasso, mi sale il colesterolo e mi viene l'infarto. Invece io sono assolutamente contraria a questa definizione, anzi, perché innanzitutto dipende dalle quantità dei cibi che noi assumiamo, ma soprattutto perché per le ossa la vitamina D è assolutamente fondamentale insieme ai raggi solari per il benessere dell'osso, quindi però, assolutamente dottoressa, non dobbiamo togliere questo dalla... Dottoressa Scarpellini, lei lo sa che il tema latte divide molto, non solo perché certo, ci sono delle persone che non bevono latte e latticini perché hanno delle intolleranze, ma ci sono anche, c'è tutto un... Ecco, poi ci sono delle scelte, ad esempio anche i vegani non prendono latte. Allora, è chiaro che sono intollerante, questo è un altro certo discorso. Poi ci sono delle scelte, ciascun magari uno decide di non bere il latte vaccino, non solamente per dei problemi, immagino, di chili. In sostituzione, quali altre fonti, a parte il latte vaccino che lei ha consigliato con i formaggi, possiamo trovare della vitamina D per aiutare, no, il nostro apparato muscolo-scheletrico articolare? L'ho accennato già prima, per esempio degli ortaggi cavoli, che sono molto, molto ricchi, tra i pesci per esempio quelli con la corazza, i gamberetti, le cozze, e tra la frutta secca soprattutto le noci. Le noci, vedi che ritorniamo alle noci, sempre, del nostro sempre dottor lì. Noce. Esatto. Allora, abbiamo dei messaggi, ascoltatori. Sentiamo Iole, che poverina sta aspettando da un pochino. Va bene. Iole da Torino, benvenuta, buongiorno. All'800 24 0024, numero a cui si stanno candidando tantissimi ascoltatori stamattina. Come sempre, d'altronde. Eccoci qua. Sì. Iole, ci dica. Sono qua, cosa devo dire? Fatemi delle domande. Ci avrà chiamato allora, per qualche motivo. La faccio io. Avverte dei dottoressa Scarpellini, mi dica come vado. Iole, avverte dei dolori in che momento della giornata? Fa la diagnosi. Sì. Allora, io a letto sento meno dolore, però non posso stare sempre a letto. No, certo. I dolori sono schiena, collo, mano destra, tutto che brucia. Con il muovendosi il dolore passa o si acuisce? Dottoressa? No, è sempre lì latente e vigile, e scoppia anche. Dunque, io un anno fa ho avuto la rottura dei tendini al braccio destro, ho fatto delle infiltrazioni e devo ripetere queste infiltrazioni perché per ora non si è ancora risolto completamente. Questa estate ho avuto la pressione alta, mi trovavo fuori Torino e un ricovero in pronto soccorso dove mi hanno subito fatto tutto il giorno una terapia per far passare questo problema. No? Iole, vediamo se la dottoressa Scarpellini ha raccolto delle informazioni utili e se il caso di Iole, che racconta questo dolore che come un fuoco colpisce varie parti del suo corpo, aiutano la dottoressa Scarpellini a inquadrare un po' il tema e soprattutto a dare dei consigli alle persone che ci stanno ascoltando e che si riconoscono in questo profilo. Innanzitutto io ringrazio Iole perché mi sento molto vicina, perché il mio secondo nome è Iole. Ah, vede? Magda, mi chiamo Iole come la mia nonna. Magda Iole, bellissima. Già Iole è fortunata, allora. In ogni caso mi vengono in mente due o tre cose. Il fatto che sia al meglio a letto, normalmente la prima cosa che viene in mente è che sia una malata che può avere un'artrosi, ma un'artrosi secondaria forse nelle zone dove ha avuto la rottura dei tendini, perché se c'è ormai un'alterazione anatomica ovviamente ci può essere una degenerazione meccanica della cartilagine e quindi un'artrosi, e oltretutto mi sento di dire che se ormai i tendini sono rotti è ovvio che le infiltrazioni non funzionano più, probabilmente certo, è per questo. Ma la cosa più importante secondo me è quella che lei ha descritto molto bene come bruciori, il fuoco dentro, è una cosa che molte donne, soprattutto donne, ci dicono. e che molto spesso si può associare a qualunque altra malattia reumatica, è un sintomo di sovrapposizione molto spesso di quello che noi chiamiamo la sindrome fibromialgica o fibromialgia. È un dolore, proprio di questa sensazione di bruciore lo rende, di tutto quello che non è osso o articolazione, ma che tutto l'apparato extralegamentoso. Erano quei famosi 700.000 pazienti di cui accennavo all'inizio nella statistica. Sì. Molto diffuso e legato tantissimo, ahimè, nella società di oggi è molto diffuso per lo stress, cioè per la contrattura che noi abbiamo, magari dormiamo male, siamo Vedi? Preoccupati, l'attività frenetica che di oggi può anche arrivare a danni reumatologici e quindi arrivano anche alla nostra osservazione. Certo. Quindi il mio consiglio che do a Iole è quello di, se c'è un fattore che lei più di me ovviamente può sapere, ma questo è il mio sistema di scoprirlo radiofonico, ma se c'è una causa, un qualcosa che lei riesce a identificare che gli dà problemi di sonno, per esempio, perché regolarizzare il sonno è la prima cosa, o comunque se riesce a togliere una causa principale di suo stress, il lavoro, i colleghi, il marito, il figlio, non lo so. Se adesso Iole, anche buttiamo il marito, insomma, facciamo. Questo abbiamo il 50% di già di beneficio. Ecco, 50% eliminando il marito. A proposito di rottura, un marito con rompino, un po' magari, ecco che fa venire anche le malattie reumatiche, ma guarda che colmo. Magari il capo al lavoro. Vede, uno dice mi fai venire il reumatismo. Esatto. Noi invece vogliamo salutare Alessandro, che è un nostro ascoltatore, un collega giornalista che vive in una bellissima città siciliana che si chiama Augusta. Alessandro appunto voleva proprio sapere se c'è una soluzione definitiva per la malattia reumatica fibromialgica, fibromialgia. Sì. Quindi credo che la dottoressa abbia risposto, no, al nostro amico, sì, rispondendo anche all'altra ascoltatrice. Sì. Più o meno. Sì, possiamo completare. Si può, Alessandro, potrei aggiungere anche comunque che al di là di, perché non sempre le cause si possono eliminare, sicuramente potrei suggerire anche una regolarizzazione del sonno anche farmacologica, qualche volta degli antidepressivi all'inizio della giornata e l'esercizio yoga che rilassano e contraggono la mente e lo spirito. Questa è una delle cose più usate in fibromialgia. Questo per dire che fare i giornalisti stressa. Ecco. Allora, noi nella seconda, subito dopo i mercati, cercheremo di capire bene la differenza tra artrite e artrosi, parleremo anche di artrite reumatoide per darvi dei campanelli d'allarme, darci, perché noi donne certo. siamo le più colpite. Come adesso, al solito, privilegiate anche da questa sì. da questo tipo di problema. Adesso andiamo ai mercati, anche loro sono rotti, ma la diagnosi la farà tra poco la dottoressa Monica Defend. Sì, di Pioneer Investments. Perché questo sarà il secondo tema della puntata alle 11.45. Continuate, se siete doloranti, a chiamare 800 24 00 24 per avere delle indicazioni dalla dottoressa Scarpellini. Cuore e denari. E chi l'avrebbe detto che si sarebbe scesi così tanto in basso fino a ieri? Le borse hanno collezionato una giornata nera dopo l'altra, ora ci chiediamo se si ricomincerà a salire o se si resterà sull'ottovolante. Oggi salgono, l'avete appena sentito. E intanto i piccoli risparmiatori cosa devono pensare? Lo affronteremo tutto questo argomento a partire dalle 11.45 con Monica Defend di Pioneer Investment. Cercheremo di capire cosa è bene fare in questi momenti e come tenere anche dalla paura naturalmente di questi ribassi. E torniamo a parlare di malattie reumatiche, quelli che noi chiamiamo reumatismi, una grande famiglia, ce ne sono più di 100, sono diverse tra loro. Se fossero persone potremmo dire che alcune hanno un brutto carattere, ma non sono poi cattive, altre sono invece aggressive e non scherzano, fanno male davvero. Però se sono raggruppate in un'intera famiglia, qualche tratto comune lo avranno. Ne stiamo parlando con la dottoressa Scarpellini. Dottoressa Scarpellini. Ma sicuramente il sintomo più importante della malattia reumatica è il dolore, però io sottolineerei giustamente, come ha detto lei, che si possono associare anche la rigidità, che può variare in base alle malattie o al mattino o alla tarda parte della giornata. Sì. e soprattutto può associarsi anche se non curate bene. Qui approfitto per sottolineare l'importanza della diagnosi precoce a delle deformazioni, cosa che io non vorrei più vedere oggi, perché ai tempi si diceva: se io ho una malattia reumatica, alla fine tanto non c'è niente da fare, arrivo sulla carrozzella e sono tutto deforme. Non è assolutamente vero, perché oggi noi abbiamo delle terapie meravigliose che possono veramente, se usate in tempi utili, portare quasi alla quello che noi chiamiamo remissione di malattia, che equivale quasi a una guarigione. La differenza però è questa, che la remissione vuol dire il paziente si sente quasi guarito, non usa più antidolorifici o antinfiammatori, ma deve continuare la terapia. Ma è tutto un altro mondo, insomma. Certo. Oggi. Dottoressa Scarpellini, attenzioniamo anche i nostri ascoltatori a dei sintomi che sembrano non aver nulla a che fare con le articolazioni, ma che possono essere delle spie, ad esempio la sensazione di secchezza, di sabbia negli occhi associata a secchezza della bocca e a dolori articolari e muscolari, l'arrossamento al viso, su naso e guancia, attorno agli occhi. Certo, la sensazione di secchezza agli occhi o alla bocca fa pensare subito a quello che noi chiamiamo la sindrome secca, la sindrome di Sjögren, con il nome difficile dello svedese che l'aveva scoperta, e che molte volte si può, è una malattia autoimmune, da anticorpi che agiscono contro di noi, ma che molto spesso si associa anche questa alla può associarsi all'artrite reumatoide. E l'altro sintomo che lei giustamente ha detto, le mani bianche, le mani che si sembrano quasi paralizzate, sì. No? La gente dice le mani di una morta, perché il sangue non mi arriva, ecco, oppure i famosi geloni dei nostri nonni ai piedi, non sono altro che quello che noi in linguaggio tecnico chiamiamo fenomeno di Raynaud, un nome francese, anche questo del medico che l'ha scoperto, ma che vuol dire una vasocostrizione, i capillari che si stringono e quindi non fanno arrivare il sangue nella zona interessata. Ma questo è importante perché? Perché è semplicemente la punta di un iceberg che può nascondere molte malattie autoimmuni anche gravi, a predominio soprattutto delle giovani donne, e quindi sono molto molto importanti da segnalare. Questo sintomo è un sintomo fondamentale per il reumatologo, che comincia a indagare per cercare eventualmente un lupus eritematoso sistemico, una sclerodermia, ancora una sindrome di Sjögren, una connettivite mista. Quindi sono malattie importanti, ecco, noi, della autoimmuni. Noi, e dottoressa poi, Scarpellini, vogliamo proprio, abbiamo voluto con Deborah fare questa puntata per dare alle nostre, non si può parlare naturalmente, certo, di tutte le malattie reumatiche, certo, abbiamo detto sono 100 e oltre poi, sì, ma per attenzionare i nostri ascoltatori, certo, per non trascurare i dolori se persistono. E a proposito di dolore, prima di dare la parola ai nostri ascoltatori, avevamo promesso che avremmo fatto un distinguo, una sorta di specchietto. Dottoressa Scarpellini, lei è bravissima, efficace, chiara e rapida. Artrite e artrosi, spesso ancora noi le consideriamo come sinonimo. Chi di noi, no, sa distinguere esattamente il dolore dell'artrosi da quello dell'artrite? Dottoressa Scarpellini, lei che lo sa, ci aiuti a capirlo. Ma io direi che è importante dire i famosi, quelle che noi chiamiamo campanelli d'allarme, per esempio dell'artrite reumatoide. Sì. Direi che sono soprattutto tre. Uno, se compare una tumefazione, quindi un rigonfiamento a carico di almeno tre o più articolazioni, che devono, e però questa tumefazione deve durare almeno tre settimane, non deve essere un dolore passeggero, sì, che viene o gira, ma deve essere sempre localizzato nelle stesse articolazioni e continuare. Poi ci deve essere soprattutto la sede, che è importante. In genere l'artrite reumatoide, anche se può colpire molte articolazioni degli arti delle superiori e inferiori, ma soprattutto si concentra molto sulle articolazioni dei polsi e delle piccole articolazioni di mani e piedi. E c'è un famoso segno, si chiama segno della gronda: se noi schiacciamo i due lati della base delle mani e piedi. No, mi è andata proprio via tanto che volevo farlo. Quando dobbiamo schiacciare? Dobbiamo schiacciare fortemente la mano o i piedi alla base delle dita, sia delle, sì, mani e dei piedi. In radio non posso farlo vedere. No, ma noi se si evoca, sì, dolore su tutto l'arco del palmo della mano o del piede, può esserci un'iniziale artrite. E poi fondamentale è la rigidità, ne abbiamo già parlato prima, il risveglio che è superiore a 30 minuti. Questo la differenzia assolutamente dal dolore invece dei sintomi dell'artrosi, perché l'artrosi invece è più subdola, soprattutto all'inizio, però è, come lei diceva, la goccia che rovina la pietra negli anni. In genere la rigidità dell'artrosi è inferiore alla mezz'ora, 10 minuti, un quarto d'ora. Il dolore dell'artrosi si sente di più durante la giornata, dopo che uno si è alzato nel pomeriggio, tarda serata, perché c'è il carico meccanico che aiuta ad aumentare il dolore. Certo. Mentre di notte, se invece si sdraia, se si riposa, ovviamente migliora. Al contrario esatto è l'artrite. Non solo la reumatoide, anche la psoriasica, per esempio, collegata sì, alla malattia che di notte la psoriasi, che di notte si risveglia. Si risveglia, soprattutto nelle prime ore del mattino, e poi c'è una rigidità pazzesca appunto al mattino. Che dura più a lungo. Che dura più a lungo, quindi il malato con artrite reumatoide dice: io non andrei mai a letto per non svegliarmi al mattino con questi dolori, che sono davvero invalidanti. Abbiamo gli ascoltatori, andiamo a Caterina da Padova e poi ad Antonio da Pesaro, se ce la facciamo. Se ce la facciamo. Siete molto rapidi. Perché E magari se sono rapidi ne prendiamo anche Caterina, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì. Sì. Niente, io telefonavo perché ho sentito che ci sono dei cerotti che contengono delle sostanze naturali tipo germanio e tipo ginseng che danno molto beneficio contro questi dolori. Volevo sapere se voi ne sapete qualcosa. Sì, io devo confessarle che io e Deborah non sappiamo, no. Ma la dottoressa Scarpellini saprà. Dottoressa, i cerotti quelli qua al germanio? Io sono purtroppo un medico ospedaliero, quindi uso di più la medicina tradizionale, questo è ovvio. Non penso che assolutamente il ginseng non possa fare male, però qui andiamo più in un discorso più ampio, secondo me, perché è quello della terapia topica. Sì. Cioè cosa si può fare con cerotti e creme? Possono essere un aiuto, non fondamentale, un aiuto comunque in aggiunta ad altre terapie, e poi dipende molto di quale malattia reumatica stiamo parlando. Se è una tendinite, se è un'endicondilite, una borsite delle caviglie, probabilmente funzionano, certamente non assolutamente mi sento di dire no se stiamo parlando di se abbiamo un'artrite reumatoide, per esempio. Dove sì. Vuoi andare come avevamo ultimo promesso Antonio, sì, Antonio. Poi se ce la facciamo Antonio. Possiamo anche scavallare un attimo. Buongiorno. Grazie per avermi chiamato e complimenti per la trasmissione. Io volevo fare una domanda alla dottoressa. Mi hanno diagnosticato ai pollici di entrambe le mani una rigioartrosi che sostanzialmente mi provoca un dolore costante sì. Nel tempo. Non so se ricorrere, perché francamente sono contraria, a una terapia antinfiammatoria costante o limitarmi a un'attività fisica che comunque forse potrebbe servire per dare maggiore capacità alla muscolatura di reggere poi lo sforzo anche del Allora, grazie Antonio. Andiamo alla rigioartrosi. Sì, dunque innanzitutto l'attività fisica direi che non è importante, anzi è importante il contrario, magari mettere un tutore nelle ore notturne per far riposare l'articolazione. Sugli antinfiammatori in effetti lei ha ragione, ma non tanto per gli effetti collaterali, perché oggi ce ne sono in commercio altri molto più tranquilli, ma perché l'artrosi in genere è una malattia più degenerativa, quindi batterebbero degli analgesici solo quando lei ha molto dolore, ma si potrebbero anche fare delle infiltrazioni locali nell'articolazione sì. Che possono dare un notevole beneficio. E soprattutto lei parla di acido ialuronico? Anche ci sono anche terapie antinfiammatorie locali oppure acido ialuronico se lo vogliamo andare nel lungo termine. Ma io direi soprattutto, questa è una cosa a cui io credo fermamente, anche in collegamento logicamente con le linee guida internazionali, oggi approfitto per dirlo, non solo nell'artrosi ma in tutte le malattie reumatiche, quello che è importante non è solo la terapia sintomatica, perché quella è fine a se stesso nella giornata, nel momento, è ovvio, per togliere il dolore, ma quello che conta è curare bene negli anni il nostro paziente, quindi iniziare a dare una terapia di condroprotezione. Controprotezione vuol dire con farmaci che proteggono la superficie della cartilagine, che a sua volta abbiamo detto che è quella danneggiata certo. In primis nell'artrosi, e quindi sono sostanze tranquillizzanti. Insomma, in qualche modo prevenire. E che si possono usare per anni senza dare nessun problema. Perfetto, la ringraziamo dottoressa Scarpellini, perché ci occupiamo di un'altra rottura noi. Quella dei mercati, che queste settimane hanno rotto, come era stato anche un po' preannunciato, alcuni equilibri, in realtà equilibri che sono comunque molto precari da molto tempo, e quindi analizzeremo questa situazione che si è manifestata tra le borse mondiali proprio negli ultimi giorni con un esperto tra pochissimo. Grazie alla dottoressa Scarpellini, alla grazie prossima. Cuore e denari. giù di così, non si poteva andare, in basso di così, c'è solo da scavare, per riprendermi, per riprenderti ci vuole. Più in basso di così non si poteva andare, lo vedremo. Insomma, qualcuno, almeno quelli più contenuti nel linguaggio, l'hanno chiamata, la chiamano avversione al rischio. Per qualcun altro, invece, per qualcuno particolarmente pessimista, si è parlato negli ultimi giorni di panico, di nuovo panico sui mercati. Insomma, senza sminuire l'accaduto, ci mancherebbe altro. Diciamo che comunque sedute come quelle degli ultimi due giorni sui mercati azionari le abbiamo viste diverse volte negli ultimi anni. Certo è che però, anche se una correzione era ampiamente preannunciata e attesa, i cali sono stati profondi, anche un po' violenti mercoledì scorso, e hanno espresso e sintetizzato una serie di timori che si sono concentrati tutti insieme: la Grecia, il rallentamento economico tedesco, l'attesa per gli stress test della Banca Centrale Europea sulle banche europee, esami che si teme molte banche potrebbero anche non passare, quindi dovranno ricapitalizzarsi di nuovo, Mario Draghi che non fa l'allentamento monetario nella forma che il mercato vorrebbe, insomma tanti elementi che hanno deciso di scatenarsi tutti insieme, un po' come in una guerra, com'è che si dice, Nicoletta? E così mercoledì, lo ricorderete, Piazza Affari meno 4,4%, ieri circa un punto e mezzo di nuovo ribasso, oggi il rimbalzo c'è, vedremo se terrà. Lo spread mercoledì che è ritornato a 200 punti base, oggi viaggia intorno ai 160, Wall Street che ha vissuto momenti di grande agitazione dopo aver viaggiato per settimane sui suoi massimi, e poi, lo abbiamo toccato questo tema anche in settimana, l'Ebola che ci ha messo il colpo di grazia. Ci rivolgiamo ai piccoli risparmiatori stamattina, 800 24 00 24, che magari proprio da poco avevano deciso di investire qualcosa in borsa. Voi cosa tendete a fare in questi momenti? Vi chiudete in casa? Non leggete nessun giornale? Non ascoltate i TG, che magari ci protegge un po' anche tutto questo che dici? Ascoltate Cuore Denari. Ascoltate Cuore Denari per... questo cosa è uno detto? Spottone. Cuore Denari, insomma, per tranquillizzarvi un po', tenete i nervi saldi, aspettate che tutto riprenda quota, cambiate strategia. Noi sentiamo che cosa fanno gli investitori professionali in frangenti come quello che si è verificato negli ultimi giorni. Buongiorno e grazie alla dottoressa Monica Defend, responsabile Global Asset Allocation Research di Pioneer Investment. Lo dico una volta, il suo incarico, dottoressa Defend, poi per tutta la durata del programma non lo dico più. Benvenuta. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Perché è davvero tanto, tanto lungo e tanto difficile, esatto, che magari non si capisce neanche tante volte. Allora, no, magari allora poi lo tradurremo, così a beneficio degli ascoltatori. Sì, noi siamo sempre... che cosa fa? Ce la racconti, a ricerca sui mercati sostanzialmente, no? Sì, allora io mi occupo di asset allocation, che significa andare a capire quanta proporzione di un portafoglio vada allocata in azioni, in obbligazioni, e una volta che abbiamo scelto la proporzione, capire quanto America, quanto Europa, quanto Giappone, quanto Pacifico, quindi fare le allocazioni regionali. Lei fa insomma la diversificazione che piace tanto a Nicoletta. Brava. Per un portafoglio un po' più consistente del nostro, diciamola in termini semplici così. Dottoressa Defend, abbiamo letto e dato molte chiavi di lettura sui cali profondi dei mercati di questi giorni, li elencavo anche prima, lei mi avrà sentito, li condivide tutti o fra le pieghe di questa situazione degli ultimi giorni lei ci ha letto anche dell'altro? Io ho letto principalmente tre fattori che stanno alla base dei movimenti degli ultimi giorni. Il primo, se vuole, più di lungo periodo e che fa da sottofondo a quello che è l'andamento dei corsi finanziari degli ultimi mesi, ossia il rallentamento della crescita globale. E a ridosso di quello che è stato l'incontro di Washington di settimana scorsa del Fondo Monetario, anche l'America sembra non avere proprio raggiunto la conclusione del suo ciclo di aggiustamento nel mercato del lavoro e nel mercato delle case, quindi rallentamento della crescita globale da un lato, il rischio della deflazione, ossia questi prezzi che invece che salire continuano a scendere. Uno si chiede, ma come mai non dovrebbe essere una cosa positiva? No. No, perché nel momento in cui i prezzi scendono, io piuttosto che spendere oggi, spendo domani. Certo. E quindi comincio a posticipare i miei acquisti e si installa quella spirale viziosa che non crea la fine. Certo, perché le aziende non possono più produrre naturalmente e hanno molte scorte di magazzino, non riescono a mettere sul mercato i loro prodotti, se devono farlo lo fanno a prezzi sempre più ribassati, non si ripagano a loro volte il ciclo produttivo, e qua ecco il circolo vizioso che lei indicava, dottoressa Defend. Poi c'è il terzo elemento che secondo me descrive bene la violenza del movimento, come diceva giusto appunto lei prima, che è un aspetto proprio tecnico di mercato. Noi abbiamo visto dei forti flussi e volumi che si sono spostati via via sempre degli strumenti più liquidi. Gli hedge fund che hanno chiuso delle posizioni di rischio cercando di limitare le perdite o consolidare eventuali guadagni, quindi questi grossi spostamenti di denaro purtroppo hanno generato la violenza delle oscillazioni, certo, dei rendimenti che abbiamo visto. Questa analisi richiederebbe un approfondimento più ampio, magari ci torniamo nella seconda parte del programma, ma in 30 secondi riusciamo intanto ad anticipare perché è stata presa di mira in modo particolare l'Italia, dottoressa De Fendt. Guardi, io credo che l'Italia non sia presa di mira, nel senso in questi momenti di forte avversione al rischio, come dicevamo, di estrema volatilità, generalmente i paesi che tendono a soffrire di più sono quelli che hanno l'etichetta di essere più fragili, ma se guardiamo quelli che sono i rendimenti azionari da inizio anno, devo dire che il mercato azionario italiano è posizionato bene, perché arrotondando un meno 4,7, un'Europa che ha fatto meno 5,6, una Germania che ha fatto meno 10, per cui è stata presa. Benissimo, ottimo, grazie allora per questa rassicurazione, ma ci torniamo dopo il giornale radio, intanto 800 24 00 24, prenotate i vostri interventi, diteci la vostra sulla borsa in questo momento. Cuore e denari. Ecco, magari con le malattie reumatiche il sirtaki non si balla tanto agilmente. No. Che dici? Però ci proviamo oggi. A proposito, meglio, come ci suggeriva un nostro ascoltatore, oltre allo yoga, praticare anche il tai chi. Molto bene. Noi, perché siamo ritornati in diretta al ritmo di sirtaki, proviamo un po' a ballare su questa settimana nera della borsa, anche se oggi tenta il recupero, chiedendoci come potranno andare le cose nelle prossime settimane. Con noi c'è sempre la dottoressa Monica De Fendt, responsabile Global Asset Allocation Research di Pioneer Investment. Per segnalarlo, così spiegarlo ai nostri ascoltatori, Pioneer è una delle più grandi SGR appunto italiane ed internazionali, e quindi come dire, sono gestori professionali di patrimoni che in qualche maniera, qualche volta anche con le loro decisioni, orientano un po' l'andamento dei mercati. Dottoressa De Fendt, oggi le attribuisco una grande responsabilità. Abbiamo evocato la Grecia con questa musica fulcro e simbolo della crisi economica europea. Noi l'abbiamo lasciata in mano alla Troica e forse ce l'eravamo anche un po' dimenticata, salvo usarla ogni tanto per qualche paragone quasi a mo' di spauracchio. Non vorremmo finire come la Grecia, no? Dicevamo qualche volta. E in questa settimana è stata anche ripresa un po' come scusa per spiegare i cali del mercato azionario europeo, che invece la dottoressa De Fendt ha individuato appunto come cause in altri elementi. Abbiamo parlato del rallentamento economico globale, della deflazione e tanto altro. Detto questo, 800 24 00 24, numero verde per i nostri ascoltatori, che ci spiegheranno un po', ci racconteranno un po' cosa ne pensano di quello che è accaduto. Dottoressa De Fendt, ritornando un po' ai temi di questi giorni e alle nuove scelte di investimento che si possono fare a questo punto, molti dei suoi colleghi, leggendo un po' in questi giorni anche le interpretazioni che hanno dato alle vicende recenti, hanno detto: non avete visto ancora nulla, il peggio deve ancora arrivare, e altro che correzione quella che c'è stata questa settimana, molto di peggio succederà da qui a Natale. Lei che ne pensa? Ha anche lei questa visione così un po' forte? Sinceramente no, è vero che sul piatto ci sono tantissimi elementi ed eventi che devono accadere. A fine mese abbiamo l'approvazione della compliance delle finanziarie dei paesi stati membro dell'Europa, abbiamo l'avvicendamento della nuova Commissione europea, abbiamo le elezioni di medio termine in America, Stati Uniti, sì. Abbiamo la presentazione della lista delle opportunità di investimento per il progetto Europa, abbiamo gli appuntamenti delle banche centrali, insomma ci sono tantissimi eventi in agenda, e questo sicuramente potrà caratterizzerà l'andamento dei corsi finanziari. Io credo che comunque la correzione da inizio anno sia stata molto forte. Se penso a un indice come quello americano, che ad oggi dà più o meno lo 0%, a fronte di un paese che sta crescendo più debolmente ma che sta comunque crescendo, mi sembra che già tanto sia stato scontato dai mercati. Quindi ecco, volatilità sì, ma ecco, non credo ci siano dei grossi a fronte di eventi davvero molto forti, certo, che possono a quel punto. Tra l'altro, Nicoletta, lo sai che c'è un indice che misura la volatilità sui mercati, lo chiamano l'indice della paura. Pensa, che è come un termometro. Esattamente, e no, è proprio il termometro che misura la volatilità dei mercati. Hai visto quanti paralleli con il cuore denari? Vedi che siamo sempre intrecciati. Avanti. Poi un'altra parola che utilizzate spesso è proprio volatilità. Allora io vorrei chiedere alla nostra esperta, sì, se la spiega bene a me e ai nostri ascoltatori, a brava, quelli che come magari non sono proprio così, esatto, ferrati. Perché non è quell'elemento che spiega solamente le borse che salgono e scendono. In sostanza devono scendere e salire molto per, come dire, identificare una volatilità marcata alle borse. Dottoressa De Fende, adesso io l'ho detta proprio in maniera banale, ma... Esattamente, allora la volatilità è un termine che noi che lavoriamo in ambito finanziario mutiamo dalla matematica, ed è la deviazione standard, ossia l'oscillazione, quanto deviano le variazioni percentuali dei prezzi nel tempo. Quindi quanto più ampie sono queste oscillazioni e tanto più frequenti, tanto più si parla di volatilità alta. Quindi cosa vuol dire? Che se io ho un prezzo, un rendimento medio di riferimento, mi sto allontanando molto da questo rendimento medio, e quindi mi posso fare male. Come diceva lei, il VIX è il nostro termometro, e non siamo più abituati in realtà ad avere la febbre così alta, perché grazie all'azione delle politiche monetarie il VIX, la volatilità, è stata mantenuta piuttosto bassa. Con quello che è successo negli ultimi tre giorni abbiamo visto appunto una volatilità molto elevata, e questo indice a muoversi in maniera violenta. Bisogna difendersi da questa volatilità, dottoressa De Fende. Mettiamoci nei panni di un piccolo risparmiatore. Secondo lei la volatilità molto alta qualche volta rappresenta anche, come dire, dà la misura dell'andamento di una fase di mercato che può dare delle opportunità di investimento, o per un piccolo risparmiatore è meglio proteggersi da una volatilità molto accentuata come quella che si è ripresentata in questi giorni? Guardi, io consiglio a un piccolo risparmiatore, ma non solo, anche a società di gestione come la nostra, di proteggersi, di proteggere il proprio patrimonio dalla volatilità dei mercati. Se vuole, questo è proprio il nostro mestiere. Bisogna essere capaci di entrare nel momento giusto, riuscire a cogliere il minimo di mercato se si vuole entrare, e uscire al massimo di mercato, che è una cosa decisamente difficile, soprattutto quando ci sono dei movimenti così infatti brutti. Mi dà, come dire, l'assist perfetto per la prossima osservazione. Proprio pochi giorni fa a Cuore Denari abbiamo avuto ospite un suo collega, Leonardo Cervellin di Swiss and Global, che naturalmente ci faceva molto un po' bravo la lista degli errori più ricorrenti che si fanno soprattutto in fasi di mercato difficili. Naturalmente è molto complicato, no, riuscire ad intercettare il prezzo molto basso dell'azione e comprarlo in quel momento. Chiaramente invece l'errore più tipico che un investitore non informato fa è quello di comprare sui massimi e vendere sui minimi. Allora il tema è un po' capire se in questi giorni si sono create le condizioni per fare lo shopping finanziario. Ci sono delle buone occasioni, secondo lei, no? E come possiamo orientare un piccolo risparmiatore per farlo andare un pochino a caccia di occasioni di investimento? Perché qua c'è anche un bel dibattito. Ieri lo leggevo anche su qualche sito specializzato. Qualcuno diceva: adesso non cominciate a dire che è giunta l'ora di comprare perché è tutto ribassato. In saldo. Esatto. Dottoressa De Fende, che ci dice su questo? I saldi della borsa. Guardi, io credo poco alle occasioni in saldo così estremo. Io quello che consiglio soprattutto a un piccolo investitore è di rivolgersi a operatori specializzati, e magari ci sono appunto dei prodotti finanziari che possono aiutare a proteggere il capitale nei momenti in cui la volatilità è così elevata. Per esempio, mi viene da pensare ai piani di accumulo, che sono dei fondi comuni che possono essere acquistati attraverso dei versamenti periodici, si chiamano i cosiddetti PAC, piani di accumulo di capitale. questo ti permette di entrare in maniera graduale nell'investimento in fondi comuni. In questo modo i risparmiatori possono accumulare nel tempo un capitale, certo, in base a quelle che sono le proprie, diciamo, beneficiando di alcuni vantaggi, esatto, la possibilità, versamento minimo e la possibilità di acquistare a prezzi variabili, che talvolta sono più elevati, ma delle volte sono anche più bassi. E quindi, per esempio, versando sempre la stessa cifra mensilmente, esatto, mettiamo 100 euro, c'è quella fase di mercato come quella di questi giorni in cui attraverso anche questo piccolo versamento si compra un po' di più, proprio perché i mercati sono scesi. Esatto. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Chi ci ha chiamato? Chi ha bussato Roberto alla nostra porta? È caduto. No. Ah, Roberto, mannaggia, proprio era lì. Ma allora, però, diversificare, la parola che a me piace tanto, un concetto che finalmente, dottoressa, ho imparato. Sai che io sono un po' dura. In questo momento si continua. Dottoressa non è che ci è caduta anche lei. Sì, eccoci, sì, qua. È sempre un consiglio valido. La diversificazione sempre e sinceramente nell'ultimo anno più che mai, per due motivi. La diversificazione consente appunto di diversificare quello che è il rischio e il rendimento delle classi di attività sottostanti, ma in un periodo come questo in cui i rendimenti dei titoli obbligazionari sono così bassi, piuttosto che i rendimenti dei titoli azionari sono così volatili, è necessario avere un portafoglio ben diversificato, perché questo mi consente di poter minimizzare i rischi massimizzando quello che è il mio rendimento di portafoglio. Però, quindi oggi più che mai io parlerei di diversificazione. Vedi che parolina che va sempre bene in tutte le stagioni, come il capospalla, un evergreen, come si suol dire. L'abitino, allora, nero. Abbiamo recuperato Roberto. Roberto, buongiorno, dove era finito? Salve. È caduto banalmente la linea. Ma senta, va un po' meglio con la pioggia a Parma? Vi siete un pochino risollevati? Fortunatamente sì, ma i problemi sono strutturali per una parte della città, quindi, come Genova. Purtroppo, ecco, probabilmente quasi che è meglio parlare di soldi in questi giorni, Roberto. Guardi, non ne sono così sicuro. Io l'ho voluto interpretare come un piccolo avviso ai nostri politici, in modo che vada tutto avanti in maniera più spedita e senza tutti i problemi che ci sono stati nei 20 anni scorsi. No, l'unica cosa che chiedevo io era possibilmente se era possibile dare più spazio a quelle che sono le formule di assicurazione reale contro i rischi che ci sono in questo momento, sia per i titoli di Stato sia per il scenario, per il fatto che forse noi che siamo sempre poco abituati a questi stress che ci derivano dalle notizie, non sempre le comprendiamo, ed è logico che la nostra reazione sia quella di agire di conseguenza. Mi chiedevo solo se esistono anche possibilità un po' concrete e molto semplici per avvicinarsi a questo tipo di possibilità, di cui non sento mai parlare quando parlo con il mio consulente. Certo, allora qua abbiamo proprio le assicurazioni pure, Roberto, pure qualche strumento assicurativo agganciato ai mercati finanziari, però negli anni passati abbiamo anche visto che da anni fa una soluzione di questo tipo, perché c'erano molte polizze vita in circolazione agganciate a titoli Lehman Brothers, quindi dalle quali si voleva anche un extra rendimento. No, non stavo parlando di questo, parlavo proprio di un rischio specifico default. Non mi sono mai chiarito questa cosa, sento ogni tanto parlare di possibilità di assicurazione contro i rischi, ma quasi fosse proprio una polizza specifica su un rischio. Allora, credo che sia più una cosa con la quale magari si assicurano le aziende, dottoressa Defend, assicurarsi contro il rischio è qualcosa evidentemente di specifico per gli imprenditori, per le aziende, naturalmente un piccolo risparmiatore si può assicurare contro il rischio, magari studiando delle soluzioni di investimento speciali, particolari e magari anche un po' costose? Guardi, a costo di essere ripetitiva, io davvero lì consiglio di rivolgersi a un esperto, perché nel momento in cui, e riporto quella che è la nostra esperienza, nel momento in cui noi andiamo a costruire un portafoglio abbiamo veramente una lista di rischi sul muro delle nostre preoccupazioni, che può essere la Cina che rallenta, può essere il rischio di deflazione in Italia, può essere il rischio geopolitico per la situazione in Russia e in Ucraina. attribuiamo una probabilità e quanto può essere la perdita associata a ciascuno di questi rischi e a quel punto valutiamo che cosa comprare per poterci proteggere. E generalmente noi lo facciamo con l'utilizzo di strumenti derivati, per cui quello che arriva al cliente finale è un portafoglio di investimento, ma che al suo interno ha una proporzione del portafoglio che è direttamente investito in strumenti che sono volti a proteggere da dei rischi specifici. Quindi questo è quello che facciamo noi. Certo, però insomma strumenti di copertura di questo tipo che vadano direttamente fra la platea dei piccoli risparmiatori non ci sono, direi anche un po' per fortuna, ci mancherebbe anche Roberto sono che si vada opzioni, esatto, opzioni, a comprare derivati. Bisogna vedere quanto costano a fronte di quanto posso perdere, diventa secondo me un rischio, un gioco un po' pericoloso. 800 24 00 24, ancora qualche minuto per i vostri interventi. Dottoressa Defend, qua un altro spettro evocato in questi giorni è stato quello degli stress test, ci ha fatto anche tanto sorridere l'anno scorso quando cominciavamo a parlare di questi nuovi esami della Banca Centrale Europea, il fatto che le banche fossero stressate è un'immagine un po', no? Abbiamo fatto delle belle puntate curiosa, utilizzando proprio la parola stress. Esatto, ma secondo lei si è detto che c'è il timore che qualche banca non passerà questo esame, che sarà necessaria una nuova ondata di ricapitalizzazioni, quindi banche che a loro volta richiederanno denaro al mercato, agli azionisti. Come vede lei questo aspetto? Guardi, io sono una fan di Draghi, di tutto quello che la Banca Centrale Europea ha fatto e sta facendo, quindi le riporto quella che è la mia opinione, perché ovviamente c'è il massimo riserbo delle autorità su quelli che sono i numeri e i risultati. L'esercizio che è stato fatto, a mio modo di vedere, è stato molto capzioso, puntuale. E andiamo a vedere cosa è successo nei bilanci delle banche rispetto a un anno fa. Sicuramente, almeno per gli operatori più grandi, ci sono state delle buone ricapitalizzazioni. Quindi personalmente io non credo che ci saranno dei grossi scossoni. Del resto, se pensiamo che la Banca Centrale Europea mette sul piatto la propria reputazione diventando il supervisore supervisore unico delle banche a novembre, c'era il massimo dell'impegno da parte sua affinché l'esercizio venisse svolto con criterio, e non credo quindi che almeno per i principali operatori ci siano delle grosse sorprese. Esatto, diciamo che però gli investitori in questi giorni hanno fatto una richiesta implicita a Mario Draghi, quella di portare avanti questo quantitative easing, questa operazione di stimolo monetario straordinaria sulla scia di quello che ha fatto la Banca Centrale Americana. Credo che questo Draghi non possa più procrastinarlo. Volevo leggere un messaggio di un ascoltatore che dice: le borse crescono troppo e spesso senza fondamentali, non spesso, diciamo che davvero senza fondamentali, sono cresciute negli ultimi tempi perché sono cresciute solo grazie alla liquidità della Banca Centrale Europea. Ho tenuto d'occhio alcuni titoli cresciuti davvero a sproposito, secondo me avremo ulteriori diverse correzioni. Noi raccogliamo questa suggestione del nostro ascoltatore, probabilmente qualche altro movimento ballerino ci sarà prossimamente. E noi torneremo a balleremo. Parlarne. Dottoressa Defend, grazie per essere stata con noi, grazie per la sua chiarezza. Grazie. Buona giornata e buon lavoro. A presto. Noi allora salutiamo? Sì. Salutiamo Paolo. Ci siamo risollevate dalle rotture delle ossa di questo venerdì. Di questo venerdì 17, ti ricordo? Sì. Ma noi l'abbiamo svangata. Sì, dai, anche perché io sono nata di venerdì 17. Davvero? Quindi non posso portarti che fortuna. Ma perché era un mese meraviglioso che è quello di giugno, pertanto sai che fantastico, non posso che appoggiarti su questo. Va bene, abbiamo il grande Paolo con noi, regia la parte tecnica. I grandi Laura Vanossi e Marco Lombardo. E noi andiamo. Lunedì cara. Cuore e denari.